Il punto di Stefano Folli. Novità ci sono, che la candidata del centrodestra Daniela Santanchè si è eletta vicepresidente della Camera, non molte. Buona parte del PD, e non parliamo del resto della sinistra, fatica ad accettarla o la respinge in modo esplicito. Si tratta, bene precisarlo, di una carica istituzionale di media rilevanza, che già era di un esponente del PDL e oggi ministro del governo Letta, Lupi. Quindi il passaggio a un altro nome del centrodestra dovrebbe essere una formalità. Dire no alla Santanchè si configura come un veto ad personam, in quanto ferrea sostenitrice di Berlusconi ed esponente dell'ala dura, la donna che ieri arringava i militanti ad Arcore nella manifestazione contro i giudici di Milano. Tuttavia, questo genere di bocciature individuali è molto destabilizzante quando si sta in un'alleanza. Se prevarrà il no, vorrà dire che la grande coalizione ha subito una grave e forse determinante ferita. Se invece il PD dovesse alla fine dire sì, prepariamoci a vedere il ritorno dei franchi tiratori.